Yes people, come tutti i mercoledì, questo è Port Royal, dalle 21 alle 23, Faia con Babylon in session, Pirata e Radio. Dentro l'acqua, cupa come inchiostro, e incontro luce sopra il molo, Ugo l'italiano, e sul giubbotto di velluto nero, un drago d'oro. Stasera intervista a Dima tra pochissimo per presentare il Memories Rhythm, poi andremo a parlare con Federico Virtus di Bring Joy, il suo nuovo singolo, e a scoprire le Reggae Ragga Roots Band direttamente da Terni. Solo al comincio, Port Royal. Ugo aveva perso tutto tranne la rabbia di uno come lui che aveva sempre vissuto la sua vita a tempo di rock and roll. E farà pugni fra i banchi della scuola, perché la cattiveria a quattro soldi, solo per sentirsi vivi, si costruiva sui modelli americani. E poi c'è sempre un divo da imitare, un divo da adorare. La grande madre dai capelli ricci, la grande madre nera, con gli occhi di latte di velluto aperti sopra il mondo. La grande madre ha trascinato Ugo, Ugo l'italiano, con un dolore strano dentro il cuore, giù fino al porto. Gli occhi fissi nella nebbia, Ugo non sognare, pensare troppo alla tua terra ti può fare male. Le dita strette alla chiusura lampo del giubbotto nero, soltanto un po' di decisione e la nave che adesso vedi ferma è già pronta per salpare. Era Ugo l'italiano, pezzo reggeggiante di Ivan Graziani, richiesto da Massi. Un saluto a tutti i massicci e le massicce all'ascolto, come sempre. Cominciamo subito, questa è l'intervista a Dima, Rising Time Label. Listen now! E continuiamo con le interviste, andiamo a scoprire l'etichetta Rising Time insieme a Dima e gli andiamo subito a chiedere come nasce la collaborazione con l'etichetta per la promozione del brano Memories. Beh, innanzitutto un salutone a tutti i ragazzi di Fire Upon Babylon e a tutti i seguaci di Port Royal sulle frequenze di Pirate Radio. Qui Dima di Rising Time Label. Grazie ragazzi per avermi ospitato. Beh, allora, la parola ripartenza innanzitutto ci mette sicuramente il buon umore. Noi sicuramente non vediamo l'ora di poter appunto tornare in giro a portare musica dal vivo e diciamo che già nelle scorse settimane siamo ripartiti appunto con i DJ set in orario aperitivo, però non neghiamo che speriamo presto di poter partecipare a qualche evento di portata più grande e appunto poter partecipare a qualche serata che porti alto appunto il nome stesso della parola serata e quindi una serata come si deve, diciamo. Com'è stato mixare brani di artisti diversi che pur cantando sullo stesso riddim lo fanno, diciamo, ognuno con il proprio stile? Dunque, diciamo che per chi vive di musica e con la musica, questo periodo è stato sicuramente difficile e deprimente, non lo nascondo. Viviamo già in un paese in cui la musica indipendente comunque fa molta fatica ad affermarsi e mi sento di dire che il lockdown ha solo enfatizzato, diciamo, una situazione già presente e messo in evidenza i limiti comunque di un mercato poco considerato da politica e istituzioni. C'è anche da dire però che in tutto questo mare di lacrime vi sono state anche situazioni positive. Durante il lockdown abbiamo ad esempio firmato i nostri primi due contratti con i nostri primi due artisti sotto appunto la nostra label che inizieranno appunto a lavorare con noi e così abbiamo allargato definitivamente i nostri orizzonti musicali verso nuove sonorità e nuovi appunto generi musicali. Diciamo che il Memories Riddim si colloca proprio in questo contesto, quindi partire da ciò che siamo stati. Per poter percorrere al meglio appunto la strada futura. Come avete affrontato questo periodo di lockdown dal punto di vista musicale e dei vostri progetti? Siete riusciti comunque ad affrontare, diciamo, al meglio questo periodo? Beh, dunque, mixare le voci di tutti gli Ovviamente c'è artisti qualche problema col montaggio, però diciamo che più o centrale meno è si stata capisce. sicuramente una delle cose che più mi ha divertito. Una delle cose, tra l'altro, più legate alla reggae music, visto che appunto sentire diversi MC su una stessa strumentale la possiamo considerare comunque una caratteristica strettamente legata al mondo della reggae music. A tal proposito, vorrei comunque anche ringraziare appunto le persone di Virtus e Tunaman che appunto hanno collaborato diciamo in questo progetto per quanto riguarda i mix delle tracce di Valentina Bausi che appunto è stata mixata per quanto riguarda la parte vocale dall'artista Virtus e invece per il brano di Tunaman che appunto le parti vocali sono state mixate dallo stesso Tunaman. Come pensate, come vi aspettate la ripartenza, visto che stiamo a quanto pare lasciandoci alle spalle sicuramente il momento più duro di tutta questa situazione? Beh, allora, questa collaborazione sicuramente è nata dalla voglia sempre crescente, soprattutto in questo periodo, di curare una certa forma di socialità, se così la vogliamo chiamare. Diciamo che mai come in questo periodo storico abbiamo sentito la necessità di fare gruppo, di lavorare insieme, e allora abbiamo pensato quale miglior mezzo se non quello della musica e appunto delle positive vibes della reggae music. Quindi musicisti, artisti, tecnici, insomma tutti insieme per un unico scopo. Diciamo che l'idea è nata un po' da qui. Per questo lavoro, visto che si parla appunto di memorie, di ricordi, abbiamo voluto diciamo mettere insieme tutti gli artisti che in qualche forma sono insomma legati dal passato. Infatti diciamo che hanno partecipato al lavoro tutti i musicisti. E sono, diciamo, appunto, innanzitutto musicisti, ma poi anche amici, con cui abbiamo comunque condiviso almeno 10 anni di storia tra palchi, serate e dischi e produzioni. E quindi condivisioni di tante esperienze musicali. Non da ultimo vorrei appunto citare il bassista dei Rootstars, Fabio Gruvaman Urson, che sicuramente è la persona che appunto si è fatta da portavoce per tutto il progetto e per quanto concerne appunto la strumentale e la Nonostante presentazione qualche della problema parte tecnico con strumentale. le risposte, direi che non c'era miglior chiusura di questa. E quindi ce l'andiamo a sentire. Memories Riddim, mixato dalle sapienti mani di DJ Smash. Ci andiamo a sentire tutti gli artisti che hanno collaborato con Rising Time, la Roots Band, per questo Memories Riddim. Ciao! As I'm walking down this empty street, where once people daily used to meet, no time, no space is all I can see, and all these heavy weights to carry on my feet. And I am floating on hypocrisy, giving away all my class and needs. This crazy world can stop us is the blessing fire of my memories. Need to find a solution, blowing away this pollution, fighting a new revolution. Keep this fire burning. Se sotto questa luna ti bacio ancora e suona il mare ai nostri piedi, perché tu non ti siedi davanti al paradiso per farne ancora una. La nebbia sale piano e piano tu mi sfiori, stanotte dormo fuori con te sotto le stelle, nel materasso fiori, la sabbia ancora calda, c'è tutta la mia banda. Pass me the blunt, I live in a di land of the Jones. Pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt. I live in a di land of the Jones. Pass me the blunt, pass me the blunt, pass me the blunt. It's not the world I wanna leave to my children. You must live your life as fast as you can. Time goes by and nothing comes back. Let's talk about love and humanity. Free from conventions, free from the scheme. Just reality. Chineboa. Algorithm views and advertising. Likes and followers, the key to find your success. This is the greatest illusion mankind has ever seen before. Spiritual reality has made us puppets and numbers. Yeah, puppets and numbers. Simple consumers. If you try to use your purest fantasy and stop looking at the front street, go back to dreaming and fantasizing. Look at the horizon. Memories 3D Megamix. Performed by DJ Smash. Fire Upon Babylon. Questo è Fort Royal. Tutti i mercoledì 21-23. Pirate Radio. We are rising time from the new regime. Not the same old tale. Happiness. Now stop the ragga music movement. Blaze up your fire now you days again. Could the root stars in a reggae redeem? I miss a fuel a day. Ready for move, I'ma tell you ready for move. This is time for the mic, I'm on the rising time groove. Ready for flow, some west, they are ready to the show. Could the whole of the girl on the dance floor, ay. Know that my fears is disappear. With the music, my soul becomes so clear. The world is our battlefield, so we will fight every day. Feet build our life, yes. The first rule is to control your mind. Your action are your thoughts now and every time. So you can keep your flame in check, yeah, no. Bliss. And I'm sounding on the place again. They are no once again a fit a lam. We are rising time from the new day. I'm not the same at all. It's not easy for me. It's not easy for me. It's not easy for me. It's not easy for me. but you still have the power over me. I shed the tears and I feel the oceans. You took the sun away from my face. I find myself in a strange situation. I'd like to see you in my place. So do I, I'm a warrior. Just like that, I'm strong. So I look in the mirror. I'm not the same person I was a longer time ago. Trying to get us with them tricks. All of this are just the politics. Questo era il Memories Rhythm, nuova uscita per Rising Time, Label e Magazine. Abbiamo sentito tutti gli artisti che hanno partecipato a questa nuova uscita: Tunaman, Mujuman, Valentina Pausi, Twen Boa, Natti Sam, Debbie Vocal, Rocco Schiavone, MC Baco e Edmi. E dopo questa canzone andremo alla scoperta della Reggae Ragga Roots Band. Peter Tosh, I Am That I Am. I'm not in this world to live up to your expectations. Neither are you here to live up to mine. Yeah. I don't owe no one, no obligation. No one owe me none, so everything is fine, fine. I said I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am. Ladies and gentlemen, men and girls, supportate Sport Royal Parrot Radio. Supportatela, scaricate, ascoltate, perché ci sarà da divertirsi. Click, click, click, click. Don't belittle my authority. It's time you recognize my quality. I said I am that I am. I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. I said I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am. Learn to love, to love your brother. I said I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. Come tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, questa è Port Royal Pirate Radio. E andiamo avanti con le interviste. Secondo ospite di questa sera, la Reggae Ragga Roots Band, nelle voci di Aurora e Irene, le due cantanti della band. Andiamo subito a scoprirla. Listen now. Ringraziando sempre tutte e tutti, ci mandano proposte di collaborazione, presentazioni di dischi o presentazioni proprio di progetti e band. Questa settimana andiamo alla scoperta della Reggae Ragga Roots Band di Terni. Aurora ed Irene risponderanno alle nostre domande. La Reggae Ragga Roots è una band di Terni composta da quattro elementi, appunto la voce, Irene ed Aurora, e poi altri due musicisti, chitarra e tastiere, che però appunto coprono anche la famosa Family Line, la linea del basso, e le batterie registrate dal vivo e poi rimandate tramite synth e campionatori. Partiamo quindi alla scoperta della Reggae Roots Band. Quindi dalla viva voce di Aurora cominciamo a scoprire la Reggae Ragga Roots Band e cominciamo a capire come nasce il progetto della band di Terni. Il nostro progetto inizia con il nome di Reggae Ragga Roots Band nel settembre 2010, quando abbiamo fatto il nostro primo concerto. E, però la Reg Reg Roots Band nasce dall'incontro tra me e Enzo, il tastierista, nonché arrangiatore e compositore dei brani, molti, molti anni prima, esattamente nei primi anni 2000, in una band reggae, i Reggae Pistols, dove appunto Enzo era il tastierista ed io la corista. E in questo gruppo siamo rimasti per circa 7 anni, ed è stata per me, avendo appena 20 anni, l'inizio della mia storia d'amore con la reggae music. E anche in quel periodo, che è stato, diciamo, i primi anni 2000, un periodo d'oro per i concerti, anche per la possibilità di avere il Rototom qui in Italia da noi, è stata la mia sicuramente scuola di formazione nel reggae. Intorno agli anni 2008-2009 mi rendo conto che già scrivevo delle poesie. Grazie poi all'ausilio di Enzo ho iniziato a scrivere canzoni. Canzoni dapprima nel primo album unicamente in inglese, tranne per un brano, e poi successivamente quasi esclusivamente in italiano. E dalla stesura di questi brani, dall'incontro con Enzo e dal fatto che poi subito tantissimi musicisti hanno voluto far parte di questa band, abbiamo iniziato questo progetto, essendo per circa 4-5 anni siamo riusciti ad essere in ben 12-13 elementi, perché avevamo una sezione fiati completa, una sezione cori, tre coriste, e tante collaborazioni con diversi cantanti del panorama reggae, sia umbro che laziale. E questo sicuramente ci ha reso poliedrici e in grado di fondere nel reggae tante contaminazioni che arrivavano comunque da ascolti che avevamo fatto in precedenza, ma anche proprio dalla commistione con tanti musicisti. E fino ad arrivare ad oggi, che abbiamo trovato già nel 2016 nella figura del nostro chitarrista Sergio, e ancor prima nel 2014 insieme ad Irene, sicuramente il cosiddetto, no, nucleo fondamentale della Reggae Ragga Roots. Continuiamo a collaborare con sezioni ritmiche di altissimo livello, così come con il nostro sassofonista, e ci piace avere delle collaborazioni che si possono ascoltare negli ultimi brani che abbiamo anche registrato. Quali sono le vostre ispirazioni, se così si può dire? Le nostre ispirazioni sono sempre state quelle di creare una sorta di brand, quindi una musica riconoscibile. Sì, parliamo di reggae, ma non solo, proprio perché scritto nelle parole da una donna, interpretato nelle voci da due donne, contaminato, io lo definirei un reggae cantautoriale. Quindi la nostra ispirazione è sempre stata quella sicuramente di creare dei brani che fossero originali nel loro modo di essere, pur rispettando i canoni del reggae e anche le nostre personalità e caratteristiche, no? E questo si capisce anche dai temi che andiamo a trattare nei testi. Sicuramente un'altra ispirazione è chiaro, è quella di poter comunicare e anche farlo attraverso la possibilità di suonare il più possibile di fronte alle persone, perché poi ci siamo sempre resi conto che molto più di un disco, molto più di un video, siamo sempre stati bravi nel comunicare emozioni live. E proprio legandoci al concetto di canzoni autoriali, di musica originali, di cui parlava Aurora prima nella risposta, ci andiamo a sentire la prima tune scelta dalla Ragga Reggae Roots Band, anche per presentarle. Questa è Prisma, Ragga Ragga Roots Band. Di un mondo atto ad uccidere quel male ad esistere è solo un verbo da scegliere un filo che è perso un filo nascosto e il mio male è la libertà. Senza coprire mai lo specchio, no. Provocarmi se sei così lontana o dall'immagine di te. Cambio, no. Sopravvivo stasera. Io sopravvivo. Esplode l'esigenza di una vita da risolvere. L'arte di sopravvivere. Faccio quel che posso, ognuno al suo posto, ho un modo di vivere. Periodo avete collaborato con Davide di Lecce e Robby Dread dei The Right Stuff. Da questa collaborazione è nato un pezzo col quale avete vinto anche il contest lanciato dal Trio Medusa da Radio DJ. Com'è andata, anzi, questa collaborazione? E poi dopo la risposta sentiamo ovviamente la Ciunna. La collaborazione con Robby Dread e Davide Di Lecce di Red Staff nasce a cavallo tra il 2018 e il 2019, grazie alla conoscenza che Aurora aveva di Robby Dread. Questa collaborazione nasce proprio da una nostra esigenza, ovvero quella di rendere i nostri brani sempre più reggae roots e chi meglio di loro per raggiungere questo nostro intento. Avevamo già scritto anni prima un brano, Es l'amor que va. Unico nostro brano in spagnolo dal profumo latino con delle inserzioni di dancehall. Dato che avevamo a disposizione, diciamo, questi due bravissimi musicisti, abbiamo deciso di andarlo a registrare tutti insieme a Roma e abbiamo inciso il pezzo. L'anno scorso, casualmente, durante il periodo estivo, ascoltando la radio, abbiamo sentito e siamo venuti a conoscenza di un contest nato in collaborazione tra il Trio Medusa, Elio Le Storie Tese e il CESBI. Questo contest nasce proprio per aiutare i musicisti e gli artisti in difficoltà nel periodo del Covid. Per cui, così, un po' per caso, abbiamo deciso di partecipare e di inviare Es l'amor que va come pezzo. A settembre casualmente apro la mail e scopro con sorpresa che abbiamo vinto questo contest, per cui oltre a vincere una somma di denaro in premio, che ci ha fatto comodo in questo periodo, abbiamo anche vinto la possibilità di esibirci a un evento che ormai è stato posticipato al 2022 per via del Covid. Questo evento sarà costituito da un grande concerto a cui parteciperanno anche Elio e le Storie Tese e avremo anche noi una nostra parte in tutto ciò, per cui ecco, non vediamo assolutamente l'ora di poterci esibire in questa situazione e questa storia, questa cosa che ci è successa, ci fa capire come gli incontri tra persone, in questo caso ad esempio con Roberto e Davide, fanno poi rifiorire e rinascere, creare cose ancora più positive e valorizzare dei progetti già in atto. E quindi ci andiamo ad ascoltare Es l'amor que va, brano che appunto ha vinto il contest lanciato dal Trio Medusa. Ce l'andiamo a sentire. Ragga Roots Band, c'è una guana. años cuando me dijiste para siempre. Me has engañado una vez y otra vez. Mira tío, lo que pasa es que tú nunca me mereces. Yo me refiero al amor con este gato. No va a doler mi corazón y está cantando. No vales nada nueva vida, estoy buscando escucharme. Es el amor que va. Tristeza vuelve ya. Algo que no toca, algo que no mata la felicidad. Es el amor que va. Tristeza vuelve ya. L'ultimo anno, l'ultimo periodo è stato ovviamente duro un po' per tutti. Come avete passato questo periodo? Magari siete riusciti a fare delle prove piuttosto che delle serate in streaming, o siete riusciti comunque a vedervi in sala? Questo ultimo anno dire che è stato complicato forse è un eufemismo, ma lo è stato per tutti. Anzi, noi ci riteniamo molto fortunati perché, ad esempio, siamo... Io ed Irene siamo riuscite ad uscire con un video l'anno scorso in aprile, fatto a distanza, su di un brano Muoviti Lento, che ha avuto anche un bel riscontro, un brano insomma scritto su un riddim, e questo ricordo con piacere, visto che ci trovavamo sotto lockdown duro e feroce, averci dato un grande slancio, no? Non soltanto a noi due, ma anche a tutto il gruppo. E poi successivamente, a maggio del 2020, abbiamo registrato un altro brano che era in cantiere, anche questo su di un riddim che poi è stato rivisitato dai nostri musicisti, Cogli l'attimo. Anche questo era un testo come Muoviti Lento in cantiere già dalla fine del 2019, e quindi in quel periodo ci è sembrato sicuramente il momento migliore per tirare fuori del materiale che potesse essere d'aiuto a noi, ma anche una ventata d'aria fresca per chi ci segue, per chi ci ascolta. E poi proprio nell'estate scorsa è nato questo A Quattro Mani, quindi scritto da me, da Irene, da Enzo e da Sergio, A Ruota Libera. È un brano che descrive esattamente la situazione in cui ci trovavamo nel lockdown, come piume al vento in un deserto, questa è la mia città. Però la nostra specie ce la farà, quindi essendo l'estate del 2020 avevamo sicuramente la speranza che tutto fosse archiviato. Per cui siamo riusciti l'anno scorso a fare questo, e poi ci siamo rivisti in sala prove nel primo autunno. Poi successivamente siamo rimasti sempre collegati, cercando di portare avanti singolarmente un po' l'idea di spettacolo che avevamo iniziato a organizzare già nell'autunno. Quindi, come dire, la passione, ma anche la profonda amicizia che ci lega e il credere fermamente nel nostro progetto ha fatto sì che questa chiusura fosse meno dura, per quanto, come si suol dire, ci stavamo suonando addosso, quindi proprio poco prima che ci venisse comunicato che fortunatamente avremmo assistito ad una riapertura primaverile, stavamo organizzando di effettuare un live on streaming dal giardino della mia casa. E poi fortunatamente tutto si è aperto e così subito abbiamo iniziato a fare le prove forti di quello che comunque abbiamo portato avanti anche a distanza, anche perché nonostante siamo tutti della stessa provincia, stavamo anche su comuni diversi. Ma questa è la dimostrazione che quando c'è la passione e la motivazione si superano anche grandi difficoltà. E d'altronde con una band che sopravvive comunque da 11 anni di difficoltà, ce ne sono state tante, ma ne è sempre valsa la pena. E proprio a proposito di lockdown, streaming e tutte cose fatte durante la pandemia, questa è Cogli l'attimo e ce l'andiamo subito a sentire. Port Royal, tutti i mercoledì. Ciun! Your baby, ora che mi conoscerai non attirerai una baby. Responsabilità, voglia di lealtà, prendo visione della missione senza ostilità. Domanda risponderà Irene. Come vedete la scena reggae in quest'ultimo periodo, la scena reggae italiana? Vi sembra che sia cresciuta oppure? Come vedo la scena reggae italiana in questo momento? Bella domanda. Allora, diciamo che io sono nata nell'89, per cui non ho vissuto tutta la parte degli anni 90 in cui c'erano le posse, i vari movimenti, The Crew, eccetera. Magari altri elementi della mia band o la stessa Aurora ha avuto la possibilità di fare esperienza di ciò. Io purtroppo no, ne ho solo sentito parlare. Per cui diciamo che da quel momento in poi la musica reggae si è evoluta. Se prima, ad esempio, per poter ascoltare un brano dalla Giamaica dovevi andare alla dancehall, ad oggi basta avere un telefono. Se oggi esce dalla Giamaica un brano, io dopo 2 giorni lo posso sentire comodamente a casa sul mio cellulare. Per cui questo vuol dire che se prima magari per poter fare musica c'era bisogno di unirsi, di mettersi insieme, adesso con pochi strumenti, un computer o poco altro, diciamo che quasi tutti hanno la possibilità di diventare anche dei selecta, perché no? Quindi se prima c'erano per ogni città 2 o 3 crew, ad oggi sono infinite. E questo non è un giudizio, è solo un'evoluzione della situazione. Quindi questo moltiplicarsi anche di select e di situazioni ha fatto sì che secondo me cambiasse poi anche la modalità di fare live, in concomitanza sia a questo fenomeno, ma sia anche al fatto che i cachet purtroppo sono diminuiti, per cui non ci si può più permettere di avere delle band, tornando sempre agli anni 90, di 10-12 elementi. E in alcune occasioni non si può neanche avere la possibilità di andare in una band di 4-5 elementi, per cui molti cantanti si sono adeguati a questa situazione riformulando i loro live e le loro canzoni con un selecta, e quindi cambiando magari proprio anche come si fruisce il live e come si fa. Quindi si sta andando, secondo me, sempre di più, non solo in Italia ma anche altrove, verso una digitalizzazione della musica, sempre più digitale e meno suonata, per tutti questi fenomeni di cui abbiamo parlato sicuramente. E quindi anche dalla stessa Giamaica ci arrivano prodotti sempre più digitalizzati, con basi anche che fanno l'occhiolino alla trap, all'hip hop, cosa che avveniva anche prima, però magari un hip hop appunto che va molto più sulla trap, sull'elettronico. Quindi diciamo che secondo me anche in Italia sta avvenendo questo. Poi ovvio ci sono sempre le situazioni live e le band che ancora tengono duro, altre ne sono nate, però ecco, sempre in formati un po' più ridotti. Però io in generale credo che, quindi riassumendo un po' il concetto, ci sia tanta possibilità di fare musica grazie al digitale. Questo forse ha causato un po' di fratture tra le persone, piuttosto che fare massive crew e posse come avveniva prima, perché prima da solo non la potevo fare la musica, avevo per forza bisogno di un compagno per poterla fare. Ad oggi non è più così, e quindi di conseguenza anche la necessità di fare una musica sempre un po' più digitale. Questo credo che sia presente sicuramente in Italia, ma non solo. Avete dei sogni nel cassetto per una collaborazione o magari per un palco dove vorreste arrivare? A questa domanda invece risponde Aurora, l'altra voce della band. I sogni nel cassetto ce ne sono sempre stati, perché attraverso i sogni siamo riusciti ad andare avanti. I desideri alimentano la passione e la passione si alimenta di desideri. E sicuramente quello di suonare il più possibile in palchi e contesti dove non abbiamo mai suonato, quindi nuovi, arrivare a più persone possibili. Ci piacerebbe tantissimo che questo concerto insieme a Elio e le Storie Tese a Bergamo si concretizzi nel miglior modo possibile, e che questo possa anche darci la possibilità di farci conoscere e di poter anche arrivare alle radio. Ecco, questo sicuramente è un nostro sogno, quello di arrivare a radio, come stiamo facendo anche con te, sempre che possano raggiungere le orecchie e le emozioni di sempre più persone. Sogniamo sicuramente di poter ripartecipare dopo anni a Rototom. Questo è un nostro desiderio, così come di riuscire ad avere, perché no, delle collaborazioni sempre più importanti nell'ambito della musica, che non sia soltanto nell'ambito della musica reggae, perché come sempre detto ci piace la contaminazione musicale. E dal secondo album Resilienza ci andiamo a sentire Going Brown. Questa è Reggae Raga Roots Band direttamente da Terni e presto su tanti palchi di Roma e provincia. Bless up yourself, Port Royal, Piratei Radio, Going Wrong. Foreign land. I wish I had a stroller to know what's so. Bye. Sono uscite le vostre prime date estive, qualcuna anzi in realtà l'avete anche già fatta nei giorni passati, penso al Salsedine ed anche a Terni siete riusciti a suonare proprio nell'ultimo fine settimana. Come vi immaginate comunque la ripartenza o come ve l'aspettate, come la state vivendo e vedendo? La ripartenza con le date è avvenuta in grande stile, diciamo, perché abbiamo riniziato i live dopo un anno e più di fermo, di stop, proprio il 30 maggio, da Rockin' Lovers, durante un evento fantastico, reggae open air organizzato da Carmela, in cui poi si sono esibiti Red Staff con Raste Welde, i Woggiaggia e altri gruppi. Per cui, diciamo, dopo un anno in cui siamo stati senza musica e senza poterci esibire, è stata veramente una botta di vita, di emozioni strepitosa, perché poi noi amiamo suonare in tanti posti, in tanti contesti, l'abbiamo fatto e continueremo a farlo. Però ovviamente suonare in un posto in cui si va proprio ad ascoltare reggae, in cui il pubblico è lì per sentire quello e soprattutto insieme ad artisti che lo fanno da 20 anni, cioè per noi è stato prima cosa un piacere, un onore e poi cioè, abbiamo proprio avuto il gusto di far sentire la nostra musica. Quindi è stata proprio una partenza con il botto, una giornata fantastica, ci siamo ritrovati dopo un anno che non ci vedevamo, per cui è stato anche bello rivedere tanti amici, proprio quando senti, no, le positive vibes del reggae, che non sono cose scritte su canzoni senza un significato, esistono e per chi ci crede, per chi porta avanti questa musica veramente con passione, poi in questi contesti le sente e noi le abbiamo sentite proprio tutte domenica 30. Poi dopo questo live ne abbiamo fatto uno a Terni, ne faremo un altro sempre in Umbria. Poi un altro nel Lazio, ce ne sono ancora altri in programmazione, per cui siamo ripartiti proprio al massimo e devo dire che sarà appunto per il fatto che siamo stati tutti dentro casa privati delle cose che più ci fanno stare bene, che gli stessi gestori di locali sono molto propensi a creare situazioni, a promuovere la musica live molto più di prima, devo constatare. Per cui devo dire che in una settimana ci hanno contattato, siamo riusciti a contattare noi in maniera molto semplice, cosa che magari prima era un po' più difficile. Quindi questo vuol dire che c'è proprio una gran voglia di andare avanti, di mettercela tutta e di divertirci tutti insieme. Quindi ecco, noi siamo felici perché questo mese diciamo che ce l'abbiamo pieno di date. Poi la nostra cara assista Aurora è in dolce attesa, per cui a breve ci sarà il lieto evento, quindi dovremo fermarci per un attimo, giustamente. Poi appena ci si potrà riorganizzare, si ripartirà sicuramente anche con un'altra carica, grazie a questa nuova vita che verrà. E quindi ecco. Forse se prima era bello suonare, stare insieme, ad oggi ha un altro valore, ha un altro sapore. Ringraziamo allora Irene ed Aurora della Reggae Ragga Roots Band, RRR Band per gli amici, per aver risposto alle nostre domande. E allora grazie ancora, Reggae Ragga Roots Band. Questa è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirate Radio. Tra poco faremo anche un'altra intervista, un'altra presentazione a Federico Virtus che presenterà il nuovo singolo Bring Joy. Questo intanto ai controlli è DJ Smash, Tavoli, Pondi e Mike, Port Royal. I shot my baby down. Seasons came and changed in time. I grew up, I called her mine. But she would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang. You shot me down. Bang, bang. And I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. You used to shoot me down. Jojo. And the love we have goes on and on. Roots and Culture Style, DJ Smash on the control, tavoli on the mic. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirata e Radio. Keep it no longer. I have to. a better day. I am on my way, no time to delay. So I watch and pray while I live each day. Too much tribulation, too much provocation, because I'm poor, they break down my door, they burst my head until my blood is shed. Marcus Wright. I did not get my share. Woman cry. So I don't live nowhere. I could not pay my rent. I did not have a cent. So they throw me out. Now I'm all about. Have your gun, you shoot a man for fun. Because you had your knife, you took my brother's life. One thing you did not know before you puff and blow. Too much tribulation, too much provocation. I get no food give to my kids. I get no clothes to cover my ribs. Oh, oh, oh, yeah. I am a man. Young girl, ooh, a pretty young girl, walking up the street. Oh, you're looking so sweet. Oh, tree. He watered the wildflowers and he watered the coconut tree. But he don't want to water my marijuana tree. I've got to let him go, let him go. Johnny Osborne, uno degli artisti che si è esibito negli anni passati sul palco del Bergamo Reggae Sunfest, che quest'anno torna dal 24 al 27 giugno. E a proposito di artisti che si esibiranno sul palco, ciao a tutti amici, sono Bun di Africa Unite. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Port Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes I, Bun Ascenso, Wicked. Ask me about the cat you told me off the rack. Ask you off the wind, and you told me off the valley. Yes, Mr. Know-it-all. You walk down the street and chat with everyone you meet. Yes, Mr. Know-it-all. Gregorio, alle prese con quelli che se pensano di saper tutto. La tripletta finale di DJ Smash e poi andremo a scoprire il nuovo lavoro di Federico Virtus, Bring Joy. Port Royal tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Fire Upon Babylon in session. Ricordiamo domani l'appuntamento allo Zoo Bar dalle 17.30 fino alle 23.30. Fire Upon Babylon, DJ Priest, Soul Roots, Jalesian e poi Barra Mista Night. E venerdì tutti a tifare l'Italia al Badu Gaga, storico pub del Tufello, quartiere libero e ribelle. Non fa se manca niente, sabato Sedorra d'Anzio, acustica, nuova sede al Bottaccio, Fire Upon Babylon in session dalle 17, powered by Tavoli Mac Sound System. Of Babylon, ultima tune per DJ Smash, e poi andiamo di intervista a Virtus per il suo nuovo singolo Bring Joy. Stars by night. John shall not survive but to be moved. And shall preserve our going out and our coming in. From this time until that I was. But I give thanks unto God continuously. Tutti i mercoledì dalle 21 alle 23 Pirata e Radio, e ringraziando ancora Dima, Rising Time Label e la Reggae Ragga Roots Band che sono stati ospiti prima nel corso della trasmissione. Andiamo adesso a sentire direttamente dalla viva voce di Federico Virtus la presentazione del suo ultimo lavoro Bring Joy, e ovviamente nel corso della intervista ce l'andiamo as usual anche a sentire. Bless Up, questa era l'ultima tune per DJ Smash, pronti di qua, intervista Federico Virtus, Bring Joy. Grazie a Federico Virtus, nelle puntate precedenti siamo andati alla scoperta dei vari artisti di Red, Gold and Green. Questa settimana invece sentiamo proprio Federico, proprio Virtus, riguardo una sua collaborazione con l'etichetta Cool Up Records, con la quale è appena uscito un mixtape e appunto che contiene il nuovo singolo che poi andremo a sentire. Com'è nata la collaborazione con l'etichetta spagnola? Buonasera a tutti. Intanto, ecco, un saluto a tutta la Port Royal Family. Mi fa molto piacere essere qui e anche ringraziare, insomma, per la collaborazione che è nata, che fa sì che più o meno, insomma, tutte le settimane ci sia qualcuno a rappresentare Red Gold Green, e in questa settimana ci sono io, perciò è un doppio piacere. E sì, nel senso, la collaborazione con la Cool Up Record, che è un'etichetta spagnola di Siviglia, Siviglia lo dico alla spagnola ormai, e anzi di Siviglia è un paesino lì vicino dove ho avuto il piacere di stare diversi giorni. È nata diversi anni fa ormai. È nata soprattutto dal punto di vista dei live, perché ho avuto il piacere di essere a Siviglia e fare due date, oddio, se non tre, non ricordo bene, una sia nella sala X di Siviglia, che è un posto per concerti molto bello, e sia facevo un evento live all'aperto per il Rototom Suspense, che fu una serata veramente epica, col sound system gigante montato in una location bellissima all'aperto con tantissime persone. E da questa parte live è nata anche poi una collaborazione con, appunto, l'etichetta, con la quale ho rilasciato già un singolo che si chiama Denfino, che potete trovare su tutti i digital store. In realtà abbiamo registrato tantissime altre cose, però insomma sono lì nel cassetto che aspettano il momento giusto per essere tirate fuori. Questo brano sembra uscito direttamente dagli anni Ottanta. Puoi raccontarci qualcosa sulla genesi di questo pezzo? Sì, ecco, intanto il brano è incluso in un, appunto, mixtape che è stato prodotto dalla Cool Up Records, che si chiama Back to the Old Days, perciò è proprio basato su tutto un viaggio della musica giamaicana dal Foundation fino a, diciamo, gli anni Ottanta. Che è oltretutto disponibile in free download sia tutto il mixtape che anche il mio brano. Basta andare a vedere su YouTube, sul video trovate il link. E appunto era un riddim di Sister Nancy, perciò già questo, insomma, mi ha un po' indicato la via. E poi, diciamo, questo era un mixtape, appunto, neanche su basi originali, su riddim, perciò sono quelle cose che nascono un po' così. L'avevo presa, come si dice, molto, molto easy, perciò ho detto, ecco, scriviamo un brano, ma anche in modo a volte rapido nascono questi tipi di brani, ispirato a quel tempo con, diciamo, qualcosa di Sister Nancy oppure di Camaus, appunto, ho fatto il falsetto che un po' ricorda le cose che faceva e fa, e fa lui, e appunto mi sono ispirato al sound degli anni 80. Chiaramente poi ci ho messo di mezzo sempre tutti i miei stili vocali, perciò c'è sia la parte un po' più DJ style old school, un po' di ragamuffin successivo classico, fino alle parti, diciamo, sing jay più cantate, più melodiche. Anche per questo, come buona parte dei tuoi lavori, è stato prodotto un lyric video. Puoi parlarci un po' di questa produzione? Sì, anche questa volta ho messo lo zampino sulla parte visiva. Insomma, chi mi segue sa che io amo un po' tutti i tipi di creazioni e creatività. perciò dove posso metterci lo zampino ce lo metto, e in questo caso ho diciamo prodotto anche questo lyrics video, come tutti insomma gli ultimi lyrics video che ho fatti sono sempre prodotti da me, e per seguire questo tipo appunto il sound degli anni 80 ho diciamo cercato di seguire quello che era la parte grafica dei flyer delle serate che dancehall che venivano fatte in quegli anni. Se andate a cercare su Google dancehall anni 80 vi usciranno questi flyer dove suonava Kilimanjaro, Vulcano, con tutte queste carte un po' gialline, sporche, e questi font che oggi chiaramente appaiono molto, molto vecchi, retro, un po' colorati, un po' trasparenti, perciò ecco, ispirandomi a quello stile là ho fatto nascere questo tipo di lyrics video. E allora andiamo a scoprire il singolo Bring Joy, tratto dal mixtape prodotto da Cool Up Records. Questo è Federico Virtus e questo è sempre Port Royal, tutti i mercoledì, Pirate Radio. Me aya, turn up the amplifier. Me singing pon a rhythm, see the people require. The taste, the pepper, me lyrical fresher. Performing is a pleasure, so now put me under pressure. I'm a local, reaching Steve focus. The mission of me life is 2010. My proposal, dancehall is a super musical trooper. One eye upon the past and the other to the future. Me aya, turn up the amplifier. Me singing pon a rhythm, see the people require. The taste, the pepper, me lyrical fresher. Performing is a pleasure, so now put me under pressure. Me no local, reaching Steve focus. The mission of me life is 2010. My proposal, dancehall is a super musical trooper. One eye upon the past and the other to the future. Pochi giorni fa hai fatto una serata a Bologna, sei tornato finalmente su un palco. Come è andata? Come è stato ritornare finalmente ad esibirsi davanti alle persone? Sì, incredibile, ma vero, ho fatto una serata, una cosa che dirlo oggi suona molto strano, quasi illegale, mettiamola così, ed è per questo che devo subito ringraziare Rus Balera, Nico Royale, perché hanno fatto sì che appunto si facesse questa serata, e anche il Ponte Lungo Summer Festival, E devo dire che io sono un po' caduto dalle nuvole perché non me l'aspettavo, un po' perché praticamente non c'ero più abituato ad essere a sentirmi chiamato per una serata. E oltretutto è stata fatta, ecco, io sono stato il 28 maggio, però in realtà sarei dovuto andare anche prima, solo che poi per, diciamo, maltempo è stata rimandata, però ecco, ci troviamo in una situazione dove ancora le serate sì, cominciavano anche a Roma, adesso ci sono moltissime situazioni, però ecco, non si tratta di vere e proprie serate dove c'è l'ospite, dove si fa live, è molto tipo bar musicale con i tavolini e roba del genere. Perciò ecco, lode a loro che hanno in qualche modo rischiato a fare un tipo di evento del genere, ma è andato molto bene. Alla fine, in qualche modo, la gente non ha comunque resistito, si è ballato sempre nel rispetto, nel senso delle regole per quello che si è potuto fare. Però ecco, poi la gente è troppo seduta al tavolino, fortunatamente non ci riesce a stare, e è stata una sensazione chiaramente molto strana. Bellissimo tornare sul palco. Devo dire che è anche vero che ci si riabitua subito. È come un po' la storia della bicicletta, e quando uno dice: ah, vabbè, la bicicletta ci andavi da bambino, no, non ci andavi più, ma appena ci rimonti sopra ti ricordi come si fa. Non hai, insomma, non è che cadi. Ecco, in questo senso, in pochi secondi, risalendo su un palco, mi sono risentito a casa nel mio habitat. Perciò mi sono subito risentito in una certa normalità, anche se comunque ancora non è totalmente tutto libero. Ogni tanto anche io ricordavo di non stare tutti troppo vicini, perciò c'era anche nell'aria un certo freno, però insomma, veramente una bellissima sensazione. Adesso puoi farci qualche anticipazione sui prossimi lavori che ci sono in uscita per te e anche per Red Golden Green Label, l'etichetta che ci hai fatto scoprire al meglio in queste ultime puntate. Assolutamente sì, io come sempre ho anche fin troppa roba da parte che devo gestire. Si tratta sia di singoli, di miei singoli, che anche di partecipazioni a dei progetti di altri cantanti. Probabilmente il mio prossimo singolo sarà sempre in qualche modo legato a Cool Up Record, ovvero c'è anche lei all'interno di questo lavoro, di un produttore spagnolo. Appunto, dovrebbe uscire il mio singolo con anche un videoclip. Ci stiamo lavorando su, che poi farà parte di un EP, sempre appunto prodotto da questo ragazzo spagnolo, dove ci saranno diversi nomi della scena reggae internazionale. Per il resto, con Red Gold Green, chiaramente noi produciamo di continuo musica con tanti artisti. Siamo anche, diciamo, in trattativa. Si cerca appunto di capire come fare uscire insieme le cose, finché insomma non sono ufficiali non le dico, però sicuramente a breve uscirà per esempio il nuovo singolo dei The Odd Roots, una super band qui di Roma, veramente molto molto bravi. Sono 8 elementi, tra cui anche i fiati. Subito dopo, il 13 giugno, uscirà il primo singolo ufficiale dei The Right Stuff, featuring Tane Rodriguez, che chiaramente noi tutti della scena conosciamo bene, ma ultimamente è conosciuta anche dai più, in quanto sta partecipando molto spesso a Propaganda Live. Ci sarà anche il singolo di Augusta Massive, con il loro videoclip. Poi abbiamo anche tantissima altra roba. Noi facciamo uscire un po' di tutto, anche cose non strettamente reggae. Ci sarà il nuovo singolo degli Studio Illegale di Murichi, che è appena uscito con un singolo afrobeat funk veramente bellissimo, featuring Valentina Bausi. Ci saranno anche nuova musica di lei, nuova musica di Jimbo. Veramente non ci fermiamo mai. Invito sempre tutti a restare connessi sui nostri social, dove insomma possono seguire tutte le prossime produzioni. Io vi ringrazio dello spazio che mi è stato concesso anche questa volta. Un abbraccio a tutta la Massive e un abbraccio speciale a Port Royal. Ringraziamo Federico Virtus per l'intervista e soprattutto per la collaborazione che abbiamo portato avanti in questa prima stagione di Port Royal. E continuiamo. Questa è Port Royal, tutti i mercoledì, Fire on Babylon in session su Pirate. Shuna qua. Not easy. Bless up ancora Federico Virtus. I love you, Pondi Control, per quest'ultima mezz'ora di Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 sicure, le 23 non ci si riesce mai. But we know evil by the rule. Easy breaking easy. Not take it so rough. Yeah. Easy breaking easy. Aha. Babylon. Bomboclat tu poco brucia come lava. Non dormiva se riposava, non c'è né obblighi, compiti, covid, ci siamo dovunque a mezzo casi, condomini, così non ne può studare. E io guaglio sin, giomana stesso, Port Royal, Pirate Radio, ogni mercoledì, on sai, big up on sai. Babylon to yeah, Babylon to ce lo risentiamo, regaletto di Joman, che settimana prossima sarà ospite per presentare il suo nuovo disco Brucia Ancora. Senti muoio. Aha! Bombo class tu poco brucia come lava. Non dormiva se riposava, non c'è né obblighi, compiti, covid, ci siamo dovunque a mezzo casi, condomini, così non ne può studare. E io guaglio sin, giomana stesso, Port Royal, Pirate Radio, ogni mercoledì, on sai, big up on sai. Just an older man. Pondi Control, tavoli Pondi Mike, questo è Port Royal, ultima mezz'oretta e poi tutti a nanna. Poor man got it, shall be taken away. leave you alone. See you every day when you walk in, I'm a zone. Prince to be king, I need a queen on my own. Feel like Holly Buds when she come around. You see me in your dream, but I see you in my ride. Hand up on the steering, see there to decide. Easy to decide, there the green, there right beside me. This is the scenery in my mind, do you like it? Cause there she goes again, standing on the corner, hope you noticing. Skanking to the beat, syrup on repeat. Protege, I speak and I wanna get to know you. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? I really, really like you. There's something about you. Think so too, don't you, don't you, don't you. Oh Lord have mercy, this man drives me crazy. Oh. My imagination is running wild, hot like a fire. You're my desire, I can't help it, I want you in my life. Tell you, you in my life, I want you in my life. You in my life, I want you in my life. You in my life, I want you in my life. Oh baby, come into my life. Cause I really, really like you. Mr. Biggie, Famal sound is a champion to Bumbuckler. And me ready to figure kill jump and Bumbuckler. Let me put the plate on all them Bumbuckler. If you diss my sound, we a go write them off. Give them six more, seven more, eight gunshots. Funeral graveyard, big boat box. Six more, seven more, eight gunshots. Bam! Rah! You up? Cause we not in a long talking sound of the dead. Booyaka booyaka in a jump on head. Permanent, permanent, fool them up a pale head. War them want, watch them blood a run red. Where they gonna run and tell me where they gonna hide. See a gunshot in a sound brain a collide. This my sound, are you dead? I want my barrow when we put in a your head. I am a lion in the den and a topic in a pen. Big bad dog beat the pan, you redeem again. Kill every sound boy, me and them and a friend. For my sound is a champion to Bumbuckler. I'm a ready figure kill jump and Bumbuckler. Let me put the plate on all them Bumbuckler. If you diss my sound, we a go write them off. Give them six more, seven more, eight gunshots. Funeral graveyard, big boat box. Six more, seven more, eight gunshots. So from the east to the west and from the north to the south. Sound one word and a straight shoot out. Anything for happen we know in a talk bout. Have a gun them loaded for all them out. This bad man and all you a go find out. My sound a killer killer without doubt. Anything for test and it's life a wipe out. Boy one word. So I say, for my sound is a champion to Bumbuckler. I'm a ready figure kill jump and Bumbuckler. Let me put the put on all them Bumbuckler. If you diss my sound we a go write them out. Give them six more, seven more, eight gunshots. Funeral graveyard, big board box. Six more, seven more, eight gunshots. Rap, rap, rap. So put your hand in the air for the killer around here. Then they figure done them any time for win a fear. Gunshot a bus all about in the square. Sound a gobbet for jump and we no fear. Man a killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer. Killer, killer, killer, killer, killer, killer, killer. Man a killer, killer, killer, killer, killer, killer. Hallo liebes Kind, ich bin der Heihnachtsmann. Gib dein Vater diesen Keks, er ist gleich entspannt. Und wenn du mich oben auf dem Schornstein siehst, dann nur weil ich da wie an einer Bonk dran zieh. Ja, mein liebes Kind, ich bin der Heihnachtsmann. Und bitte nicht verwechseln mit dem Weihnachtsmann. Der Unterschied zu ihm, ich bin high verdammt. Und versteck mich vor deinem Vater im Kleiderschrank. Ich sitz da und roll mir einen Ofen. Aus meinem Mund kommen Wolken geflogen. Keinem Sack, nur ein Beutel. Ayla, with an Annuncio. Feuerzeug lodert, die Knolle nicht ohne. Die Lichtlein angezündet, Freude zieht in jeden Raum. Sagt mir, Kinder, habt ihr Wünsche, heute erfüll ich jeden Traum. Leuchte Licht mit hellem Schein, von Kräuters Bliff, da werd ich high. Hm, dufte das gut, ich freu mich auf die Leckereien. Start Schnee, Eike Nacht des Mann. Fröhliche Stimmung, es riecht süß nach Vanille. Grün ist die Brille, ein Scheinklein brennt. Es eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Hallo liebes Kind, ich bin der Heihnachtsmann. Gib dein Vater diesen Keksen, er ist gleich entspannt. Und wenn du mich oben auf dem Schornstein siehst, dann nur weil ich da wie an einer Bon dran zieh. Ja, mein liebes Kind, ich bin der Heihnachtsmann. Und bitte nicht verwechseln mit dem Weihnachtsmann. Der Unterschied zu ihm, ich bin high verdammt. Und versteck mich vor deinem Vater im Kleiderschrank. Und wenn ich heute Nacht bedeutsam nen Joint puff, kann es jeder sehen wegen der unglaublichen Leuchtkraft. Sie rennen mir hinterher, weil ich supergeiles Zeug hab. Ja, daran zerbrach schon so manche Freundschaft. Lass uns froh und munter sein, ich hab hier grad ein pures Teil. Hab mein Dopplerbund erreicht, wir ballern uns die Lunte rein. Mein Schlitten kann ich fliegen, im Gegensatz zu seinem. Doch ich bin so high, ich flieg von ganz alleine. Ich backe im Handumdrehen, nen Haschischkeks im Handumdrehen, der Verstand zerlegt. Danach kannst du nicht mehr das Alphabet. Und man kann dich selber sehen. Hallo liebes Kind, ich bin der Heihnachtsmann. Gib dein Vater diesen Keksen, er ist gleich entspannt. Und wenn du mich oben auf dem Schornstein siehst, dann nur weil ich da wie an einer Bon dran zieh. Ja, mein liebes Kind, ich bin der Heihnachtsmann. Und bitte nicht verwechseln mit dem Weihnachtsmann. Der Unterschied zu ihm, ich bin high verdammt. Und versteck mich vor deinem Vater im Kleiderschrank. Ich bin der Heihnachtsmann, bin high verdammt. It's been a long, long time. A Ilario Fondi contro al tavolo Fondi Mike. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23. Pirata e Radio. From long time, for long time. Fai a Bomba Bionic Session. Sounds to really make you jump and dance. It's been a long, long, long, long, long, long, long, long, long time. I might not hear no good sound. Sounds to really make you jump and dance. Sounds to really make you jump and dance. It's been a long, long, long, long, long, long, long, long, long time. I might not hear no good sound. Listen, what's going on? What's going on? It's been a hot, hot, hot, hot minute since I heard proper lyrics. These days it's all about image and gimmicks. Fans preoccupation with first week sales figures. Rappers versus beat, but they can still sell digits. Cause everyone's an expert and everyone's a critic. Everyone's a marketing genius starting a business. I ain't fighting down the youngers, I give youths a chance. But what happened to the days when we used to dance? Man, I miss tunes that gave me chills and goose pimples. Everything's digital, man, I miss vinyl singles. I miss checking out the artwork and reading credits. I miss the classic cracker when the needle touched the records. Someone's stuck in guillotines, our music's been beheaded. And they won't be satisfied till it's all dead and buried. Best be ready, revolution ain't on telly. By enemies necessary, take no less secretary. It's been a long, long, long, long, long, long, long, long, long time. I might not hear no good sound. Sounds to really make you jump and think, ay. Sounds to really make you jump and think. It's been a long, long, long, long, long, long, long, long, long time. I might not hear no good sound. Sounds to really make you jump and think, sounds to really make you jump and think. From Jah, we rise like the sun, and we move from Babylon. Babylon with a wicked sound. Boy from high ground. Yeah, you know what is happening, my friend. From Romania, good vibes we are spread. Give me shot up on the area again. On a righteous road we stand. Me a speak from me heart, no mean a pretend. Sending love to the people to overcome them. You need to stand up to change your faith and open more doors. One lion, King's the move. Yes, I say you gotta start from within. Even if they hate you and think you don't need. When life is gray and you need more green, take some nice old food from the reggae cuisine. Cause you can feel the groove, groove. The old Kingston mood, mood. Dancing till the noon, noon. I don't wanna go home too soon. Get me rock on the rhythm. Whoa, yeah. We are roots reggae rockers from East Europe. On a rocky road where the politics can't stop. Playing in a rubber-dub style. Playing something good for a while. Now we rise like the sun. And we move from Babylon with a wicked sound. From high ground, yeah. You know what is happening, my friend. From Romania, good vibes we are spread. Give me shot up on the area again. On a righteous road we stand. Leuke Rhythm, Rotterdam, some sound I go dead tonight. Come off the track, wie in den 90ern. Drop bombs auf dem Rap und alle freuen sich dann. Toys müssen warten, denn J-Bone hat Stage Time. Läuft schon, ich hol mir den Thron und das Geld rein. Komm auf den Track, wie in den 90ern. Drop bombs auf dem Rap und alle freuen sich dann. Toys müssen warten, denn J-Bone hat Stage Time. Läuft schon, ich hol mir den Thron und das Geld rein. Steine im Glas aus, komm, wir nehmen Fahrt auf. Kennen wir den letzten Kunde Gras aus dem Bad raus. Das hier ist Tag ein, Tag aus, Vibe catchen. Und permanent Akzente am Mic setzen. Hab die Papiere und das Zeugnis zum Töten. Studiere die Niceness für Biere und Kröten. Lass mal löten, das Ding schon wieder aus. Doch geh raus auf die Stage und sing für Applaus. Gestern noch Rotterdam, heute schon back. Auf dem Track, Diamond Girl im Gepäck versteckt. Und halt gebaut, bring uns heil über die Grenze. Ich mach blau, heiß gleich, dass ich schwänze. Kein Zweifel, schreit Way Rules. Für die Vibes und Lines für die Holes. Cool down und tunen wie Isaacs. Mit dem Bum Bang Peng, der das live macht. Komm auf den Track wie in den 90ern. Drop Bombs auf dem Rap und alle freuen sich dann. Toys müssen warten, denn J-Bone hat Stage Time. Läuft schon, ich hol mir den Thron und das Geld rein. Komm auf den Track wie in den 90ern. Drop Bombs auf dem Rap und alle freuen sich dann. Ripletta finale per Ilario. 6 minuti e poi ci sentiamo mercoledì prossimo sulle frequenze di Piratai Radio. Ist der Name ist Programm. 1-2 Gramm bin ich fromm wie ein Lamm. Merkt ihr den Namen, merkt ihr die vier? Immer will geboren, Sternzeichen Stier. Guckt, was passiert, wenn ich rap, so wie jetzt. Es ist perfekt, dass er prickelt wie Sekt. Jeder meiner Flows sprudelt wie ein Zeltas. Unsere Skills reifen, eure werden älter. Ihr werdet kälter, habt nichts gelernt. Eure Realness hat sich an der Bitch gewärmt. F zu dem Jabba und das geht ab. Seit den 90ern Nacht für Nacht, buch uns für Partys, wir regeln das dann mit den Flows auf dem Beat und dem Rampam. Pam. Komm auf den Track wie in den 90ern. Drop Bombs auf dem Rap und alle freuen sich dann. Toys müssen warten, denn J-Bone hat Stage Time. Läuft schon, ich hol mir den Thron und das Geld rein. Komm auf den Track wie in den 90ern. Drop Bombs auf dem Rap und alle freuen sich dann. Toys müssen warten, denn J-Bone hat Stage Time. Läuft schon, ich hol mir den Thron. Much money in my pocket, and me never finish school. But you don't need to feel compassionate for me. Don't think say I'm a fool. Cause I've been writing my own story, and I've been growing my own tree. Never believe in a no institution to set my mind free. Cause what goes left must come right. Me still I win the fight. Cause what goes up must come down. Here comes my song. Global war, some in the haya. Forward not the dreadlocks. Global war, some in the haya. Forward come a rasta man. Global war, some in the haya. Forward not the dreadlocks. Yeah, I would come a Rasta man. So Now them never like my spirituality, and them never like my face. So them tried with any means necessary just to get me out of the race. Cause me never like their cries, and me never accept their cross. I never feel for their meditation. My choice was not a loss. Global war, so me dey a yap. Forward not the dreadlocks. Global war, so me dey a yap. Forward come a rasta man. Global war, so me dey a yap. Forward not the dreadlocks. Global war, so me dey a yap. Forward come a rasta man. Ciao a tutti amici, sono Bull di Africa Unite e volevo salutare tutti gli ascoltatori di Port Royal e Fire from Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la Reggae Music. Yes I, buon accesso, Wicked! Supporto Port Royal Pirate Radio. Let's go! This is my life. It's the only part of it that me have to start right. It's me learn to ride the tune before me learn to ride a bike. Spiritual thing, you know me not telling a lie. Reggae music really gonna save me life. Living at the ghetto where it's full of a crime. Me want to teach the ghetto use the wrong from the right. It's on you, them, them are gonna rise up. It's the new generation I come. Guardatela, scaricate, ascoltate, perché sarà da divertirsi. Chris, I'm ready. They grew up on roots, stubborn, rock steady. King Tubby, scientist, and Sly and Robbie. On the stage, you Michael Prophet, make me what a picnic. Yes, the young better rock, rock it nice and easy. Yes, the rhythm rider with the bad melody. If you're feeling low, let me got the remedy. Roll up a big spliff and listen some Charlie B. Me send me chop on a microphone for everybody. Happy go and big up Jamaica for the sweet reggae beat. When me first one, it reaches, you know it changed. We not chat about guns, drugs, harmony. Because you know, say me not want them things around me. Yes, me burn up, me spliff, and you know me feel irie. I'm just being myself, you know, I'm just being me. Love life and you go and feel free. Hey, I'm just a new generation I come. Sto fuoco brucia come lava. Non dormiva se riposava. Non c'è né obblighi, compiti, covid. Ci siamo dovunque a mezzo casi condomini. Così non ne può stutare. E io guaglio sin Giomana Sesso, Port Royal Pirate Radio. Ogni mercoledì ono sai, big up ono sai. E qua si conclude la puntata. Ci sentiamo sulle frequenze di Pirate Radio mercoledì prossimo, come al solito 21-23. Ci vediamo domani allo Zobar, venerdì al Badugada o sabato ad Anzio. E se volete fate la tripletta. Buonanotte a tutte e a tutti. Questo era Port Royal, Pirata Radio. Fai a pompa in session.